Siete arrivati numerosi in occasione, ecco, della serata dedicata ad Alba Giampiccolo. A me fa particolarmente piacere iniziare la settimana dedicata alla memoria, alla Shoah, anche con Alba Giampiccolo. L'idea era di coniugare due finalità fondamentali di questa biblioteca. La prima è sicuramente quella di lavorare sulla memoria. È un progetto che quest'anno parte e lo inauguriamo con Alba Giampiccolo ed è il progetto della memorialistica che vede la consegna da parte di autori del proprio diario, del proprio memoriale, dei propri appunti e la creazione di una biografia in comune accordo appunto con chi ci consegnerà il materiale, alcune foto che ci verranno consegnate e la pubblicazione di tutto con l'autorizzazione necessaria da parte del diretto interessato sul nostro sito. Questo perché manca un filone in questo senso della memorialistica qui da noi e sarebbe interessante poterlo proseguire. In quanto abbiamo scoperto che proprio in questo settore, con queste testimonianze spontanee e anche genuine, non filtrate, spesso troviamo degli elementi, degli spunti da conoscere, da ricercare, da indagare anche più approfonditamente. Ed è un settore che, per esempio, anche nel vicino Trentino viene molto caldeggiato e così inseguito da anni anche dal Museo Storico in Trento. Così abbiamo questa ambizione di continuare anche noi su questa linea, anzi di iniziare questo lavoro, visto che la Biblioteca Provinciale Italiana Claudio Augusta ha tra le sue competenze e le sue finalità proprio questo, quello di costruire un patrimonio legato al territorio, soprattutto per conoscerlo meglio. Io vi porto i saluti dell'assessore Cristian Tomasini, che questa sera non potrà essere con noi, ma che ci accompagna in questa settimana di iniziative, anche perché non ci sarà solo la serata di Alba Giampiccolo. Avremo giovedì 28 gennaio una mattinata alla quale siete invitati tutti caldamente a partecipare. Alle 10 di mattina di giovedì 28 gennaio noi così celebreremo la giornata della memoria invitando altre testimoni, altre donne che all'epoca dei fatti, durante la Seconda Guerra Mondiale, erano o bambine o ragazze, giovani adulte, che ci riporteranno alla memoria le loro testimonianze, quello che hanno visto, quello che hanno vissuto, quello che hanno purtroppo sperimentato e sul territorio con un aggancio fortemente legato appunto al territorio. Parlo delle testimonianze di Ada Vita, di Maria Pia Zamboni, con l'introduzione storica di Alessandra Zendron. Questo progetto è stato creato e costituito insieme all'ANPI, all'ANEI. Ci sono parecchie persone che ci hanno così voluto aiutare, le ringrazio. Stasera qui con noi c'è Orazio Leonardi, c'è il senatore Bertoldi. Tutti hanno voluto collaborare, c'è anche Mariella Fassardi che ho intravisto prima da qualche parte, l'ho vista entrare. Ecco, e è un progetto che vuole far conoscere anche la parte femminile, il ricordo femminile, magari meno celebrato, meno codificato. Anche attraverso le pubblicazioni, i libri, ma che non per questo è meno importante ed è meno incisivo. Avremo anche testimonianze di altre persone, di altri volontari che si offrono per dare un segno, dare una traccia e lasciare così un senso anche di quello che hanno vissuto e di hanno visto. Ecco, non mi dilungo, ringrazio i nostri attori. La signora dell'Aquila, il signor Zindaco, ringrazio anche Eugen Galasso che spesso ci aiuta nella moderazione, nell'introduzione delle nostre serate, soprattutto a taglio narrativo. Ringrazio chiaramente Alba Giampiccolo e la professoressa Leverato che con noi questa sera ci dà una mano per capire, conoscere meglio anche Alba Giampiccolo come persona. Vi ringrazio, vi comunico che la stessa giornata del 28 di gennaio verrà ripetuta al Centro Trevi venerdì sera alle ore 18. Abbiamo qui sempre dei volantini informativi della biblioteca, per avere informazioni di quello che facciamo basta iscriversi, ci sono dei moduli da compilare, è assolutamente gratuito ed è un modo per così usufruire di quello che noi pubblicamente facciamo e mettiamo a disposizione con grande, ecco, un grande anche partecipazione, direi, da parte di tutti i miei collaboratori. Vi ringrazio e lascio subito la parola ai protagonisti. Grazie mille, buona serata. Vuole il microfono? Ecco, qua, silenzio. Scuso, oggi particolarmente, insomma, sono ancora pienamente bronchitico, quindi mi scuserete le sciocchezze in più che dirò. Ecco, naturalmente mi riallaccio a quanto diceva la dottoressa Trevisan, è un testo, anzi sono dei testi in prosa, quello più lungo, quello che fa da fer rouge, diciamo, del videolibro, e ci sono delle poesie. Alba so che preferisce parlare di pensieri in poesia, pensieri, impressioni poetiche. Comunque, ecco, diciamo, questo doppio registro tra prosa e poesia, e io mi permetto anche di segnalare, del resto lo vedono nella copertina, Alba Giampiccolo è notoriamente anche pittrice, anche artista, nel senso, diciamo, della creatività espansa e servendosi di un'altra tecnica. Ecco, dicevo, mi riallaccio a quanto diceva la dottoressa Trevisan. Per me poi la giornata della memoria ha un'importanza particolare, e qui mi permetto di dire anche, credo che per voi ormai non sono più bolzanino, quindi ha un'importanza relativa la cosa, ma credo che quest'anno sia successo un fatto gravissimo in comune, e questo credo lo conosciate tutti, insomma, no? E non c'è bisogno di infierire, diciamo, ulteriormente, ho già detto e scritto quello che penso a riguardo. Ora, e quindi invece ribadire la tragedia di quegli anni ha un'importanza particolare, un'importanza ulteriore, e soprattutto, appunto, e qui non vorrei essere retorico, ma insomma la scrittura al femminile viene sempre troppo poco accentuata, troppo scrittura, ma vedo anche nella prima fila un'altra significativa artista ormai bolzanina, che è Luana Angermayer. C'è una scrittura al femminile anche in senso ampio, no? Non è detto che si scriva solo con le parole, si scrive con i segni, evidentemente col segno grafico, cosa che anche Alba fa ampiamente, come vedete anche dalla copertina. Dicevo, qual è il valore? È il valore particolare che ha l'autobiografia. L'autobiografia riscoperta, in realtà mai persa, se volete, ma un pochino così, soprattutto sotto la spinta di una cultura troppo, come possiamo dire, politicistica o altro, era stata un pochino abbandonata. Invece noi sappiamo che la grande cultura occidentale e orientale ha sempre fatto appello alla testimonianza in prima persona, che è l'autobiografia. Accennava la dottoressa Trevisan alla riscoperta a Bolzano e a Trento, ma io mi permetto di aggiungere la riscoperta che dopo Foucault, per me c'è un prima e un dopo Michel Foucault, esagero un po', lo so, ma a livello di pensiero è così, che ha sdoganato scusate la bruttissima espressione di Edi Scalfari, no? Di Eugenio Scalfari, che la riferiva a un partito politico, non c'entra nulla, ma insomma c'era quasi un tabù, perché appunto bisognava scrivere, ma non diciamo scrivere in prima persona, c'era un po' questo tabù. Poi appunto scienziati sociali come Wiesdorf, come Lejeune, e poi in Italia c'è l'archivio di Pieve Santo Stefano presso Arezzo, che è l'archivio nazionale, se a qualcuno interessa. Per noi non va più Alba, perché abbiamo pubblicato e quindi non, siamo, non va. Però chi non abbia pubblicato e intenda farlo, o intenda comunque partecipare alle iniziative di Pieve Santo Stefano, di biblioteca, c'è anche l'indirizzo, diciamo il grande Duccio Demetrio, pedagogista, psicologo, ha dato una spinta, e anche lo storico e giornalista che è il fondatore dell'archivio, Saverio Tutino. Ecco, quindi c'è questo archivio dove trovate le cose più incredibili, anche il... quella signora del contado di Reggio Emilia, quasi illetterata, che aveva impresso delle memorie, fra l'altro molto interessanti anche dal punto di vista di cui parliamo oggi, addirittura sulle lenzuola di casa. Aveva impresso i segni, non aveva evidentemente carta, risme di carta a disposizione, e si era servito di un materiale un po' atipico, però è molto interessante anche dal punto di vista poi della cultura materiale, dal punto di vista antropologico, diciamo così. Poi ecco, c'è un altro aspetto, queste testimonianze in prima persona sono state rivalutate da quella storiografia che in Italia stenta tuttavia a decollare, anche se qualcosa c'è anche a livello locale, è imbarazzante fare dei nomi perché poi non se ne fanno degli altri, ma diciamo a livello di storiografia locale ci sono tentativi grossi per riscoprire anche questa verità, cioè gli annali francesi, la Nouvelle Histoire, la cosiddetta nuova storiografia, che è partita negli anni 30, pensate, in Francia, quindi con Brodel, con Lucien Febvre, con Marc Bloch, e che oggi ancora le Ruole di Rui e altri portano avanti, è non tanto la storia diplomatica, la storia politica, che è importantissima, la storia economica, diplomatica, appunto, eccetera, quanto la storia delle cosiddette persone che vivono, per esempio, un'esperienza quale quella che troviamo nel libro di Alba, che è la guerra, che è anche la guerra e tutto quello che purtroppo alla guerra si lega, no? Quindi rimane un po' sullo sfondo, ma sullo sfondo in un modo molto presente in realtà, no? Il discorso, purtroppo, accennavo prima al discorso, anche se forse in modo un po' alla lontana, appunto l'esperienza dei lager, l'esperienza che cui accennava la dottoressa all'inizio, il discorso della giornata della memoria, che come è noto c'è da pochi anni, no? E avremmo voluto introdurla prima. Ecco, le esperienze che sono particolarmente interessanti in questo caso, perché sono esperienze in qualche modo ritirate. Non abbiamo una testimonianza diretta su fatti spaventosi, abbiamo una testimonianza indiretta che è a fortiori direi più significativa di quell'altra che può essere magari troppo esplicita, che potrebbe essere troppo esplicita. Paradossalmente, ecco, delle testimonianze indirette, delle testimonianze vissute, ma con diciamo, una vita che sta un pochino ai margini o sullo sfondo, per ovvi motivi. Alba Giampiccolo era, mi scuserà il bisticcio di parole, era piccola all'epoca, era molto giovane, no? E quindi chiaramente non poteva partecipare in prima persona, grazie al cielo, a vicende che sarebbero state spaventose. Eppure c'è sullo sfondo, poi alcune cose le sentirete e altre, qui chiaramente è un invito a leggere tutta l'opera, qui è inutile che ve lo dica, insomma, no? Sembra un pochino retorico e così, insomma, aggiunto, no? In qualche modo, invece no. Ora, un'altra cosa dal punto di vista stilistico, parlo del testo in prosa, poi qualcosa vorrei dire anche sulla poesia. Il testo in prosa, che è il più lungo, diciamo, anche se non è molto lungo, è un testo che apparentemente salta, come si suol dire, di palo in frasca o insomma, diciamo, disperde i tempi, quasi una grande macchina del tempo che mangia i tempi e li ricolloca diversamente. Perché questo? Perché evidentemente c'è quello che si chiama lo storm of consciousness, no? Il flusso coscienziale che noi conosciamo da, diciamo, dai grandi scrittori del Novecento in poi, da Proust, da Joyce, vabbè, da Beckett, che ha scritto prevalentemente teatro, ma non solo, da Svevo, da Musil, eccetera. Parlo degli autori evidentemente che hanno praticato nella letteratura, anche se non direttamente in questo caso, però qui invece è direttamente l'autobiografia e la scrittura in prima persona. Ecco, lì è in forma mediata, qui è in forma immediata, no? Diretta, è impresa, per così dire, diretta. Oltre a questo, ecco, vorrei dire che ci sono delle felicissime intuizioni anche a livello poetico. Ecco, qui inutile che mi soffermi sugli episodi. Diciamo, Alba narra gli episodi della sua vita che l'hanno particolarmente colpita, che sono rimasti particolarmente impressi nella sua memoria. Quindi, quali? Ma direi, appunto, alcuni episodi legati alla guerra, ma in modo indiretto, poi vedrete, e anche episodi poi naturalmente del dopoguerra che ha vissuto invece da giovane adulta e da adulta. Quindi diciamo, poi c'è una prolusione, ma questo ecco per il testo in prosa. Venendo invece alla poesia, qui volevo aggiungere, noi siamo abituati a dire tornado, nei paesi in cui purtroppo sono più frequenti si dice tornando. Tornando che sembra un gerundio presente, no? Di tornare, invece è il tornando. In America Latina non sentirete mai tornado, sentirete tornando. Vabbè, questo era solo una notazione così per ad usum publici, diciamo, no? Nel senso che poi saprete. Ecco, nel testo poetico una scelta molto significativa, che è quella del verso libero, che sistematicamente Alba pratica. Ecco, c'è un bellissimo articolo, saggio in realtà, di Roubaud nel nuovo Le Monde Diplomatique, lo trovate anche in italiano, questa parte è tradotta anche in italiano, non è tradotta la parte, ho visto una volta, delle recensioni librarie, quella è diversa, diversa a seconda della lingua in cui la leggete, in cui leggete la traduzione. Meglio sarebbe prendere l'originale per avere. Comunque, dove Roubaud dice, e io sono assolutamente d'accordo, credo che adesso qui è un pochino un discorso tra poeti, quindi magari c'è anche, vedo, Franco Latino e altri, no? Però io lo trovo particolarmente vero. Cioè, dice Roubaud, al poeta si chiede sempre di prendere posizione politica, sociale, eccetera. In realtà sottintende evidentemente che si prende, magari anche in altra maniera, anche attraverso il velame, se volete, della metafora. Io direi la poesia di Alba Giampiccolo è una poesia più schietta, più diretta, va più al sodo, usa appunto il verso libero, è già, il che non vuol dire naturalmente che non ci siano fonosimbolismi, che non ci siano assonanze, cioè vocali che ritornano, consonanze, cioè consonanti che hanno un ruolo particolare, spesso la S in tutti noi, diciamo, che produciamo poesia, c'è questo. E altro ancora. Io direi sono testi particolarmente significativi, leggo solo far rivivere i vari episodi con grande nostalgia. Ecco, questo tratto che è poi sempre della poesia, non il nostalgismo, ma proprio la nostalgia, no? Un grande poeta, scrittore, drammaturgo, regista cinematografico, morto purtroppo, russo, che ha avuto grandi problemi prima ovviamente della perestroica, della glasnost, ha fatto, forse qualcuno di voi l'ha visto, ogni tanto è difficile vederlo anche perché è considerato un film, come si può dire, obsoleto, questo Nostalgia, no? Che è in russo, è nostalgia, che è un'opera straordinaria, guardatela, purtroppo ve la passeranno a ore spaventose se non lo video registrate o se non lo guardate in internet, perché gli orari sono spaventosi per quello che di poetico rimane anche nel cinema. Scusate, così un po' lo sfogo, ma è vero. Ecco, e altre poesie dove, ecco, fantasia liberi dall'opprimente peso del quotidiano, tuffarsi in un sogno liberatorio risalendo sulle ali della fantasia. Poi poeti, gli attori, l'attrice, l'attore leggeranno molto meglio, quindi non preoccupatevi. Vorrei appunto chiedere anche al professor Galasso se possiamo alternare, sì, un attimo, sì, sì. Ho finito, la presentazione alcuni brani che verranno letti appunto. Io ho finito, volevo far parlare la collega. Pensavamo di... Parlano sì, loro? Sì, sì. È meglio, parlo dopo, sì. Allora io. Okay, ecco, va bene, grazie. Allora se vuoi parlare. Dopo, no, è meglio che lo parlino loro, no? Allora, ecco qua. Grazie. È meglio perché così si crea più interesse. L'esistenza, il vivere di ogni essere umano, è l'enciclopedia delle personali emozioni, variabili, intense, leggere o pesanti. Al pensiero non puoi mettere il confine, lo stop. Esso va nell'impronta di ciò che lo colpisce, nei più variati retroscena emotivi. Nella personale enciclopedia, un tornado, vento ciclonico irregolare, tormento nell'ego, risveglio dal letargo di tristi avvenimenti. soffiandoli via, far emergere atavici lieti ricordi. Un tornado per svegliare, far rivivere i vari episodi con grande nostalgia. La giovinezza, paragonata ad una stella di ghiaccio evanescente, bellissima nella sua breve durata, è ammirata, splendida. Per magia, piano piano, al raggio del caldo sole o calpestata, sparisce lasciando l'impronta. Altre stille si susseguono, ma quella non ritorna più. Prosegue l'incontro al nuovo giorno, con l'avanzare del primo chiarore. Buongiorno al risveglio del mattino. Buongiorno, incognita che avanza, responsa della personale meteorologia. Alzarsi dubbiosi. La notte ha reso più o meno tranquillo il riposo. Il dubbio accompagna l'incognita del risveglio. Ciò che si presenterà, un interrogativo che tiene in fibrillazione, è il dubbio arcana sensazione, curiosa per quanto nel risveglio accadrà. Sfogliando l'enciclopedia, ti rivedo allegramente, giovinezza, nel passeggio attraverso i vigneti, nella spigolatura, finita la grande festa della vendemmia. Rari grappoli, un po' avvizziti, ti guardano, alteri come vetuste belle dimenticate dame, e sembrano dire: raccoglimi, non strapparmi, sto vivendo. Non ferirmi. Caro grappolo abbandonato, sei sempre una meraviglia della natura. Ti sto assaporando. Bisogna uscire dai filari. È un obbligo. Si dipende da qualcuno. Subire un comando. Accade. Dipende, subire. Verbi correnti in questa grama vita, nella cruda realtà. Si fa strada la paura, fa tremare, è sempre critica, tragica, sconvolgente ombra di persecuzione. Vedi l'abisso nel grande vuoto della solitudine, senza eco. Vorresti dialogare? Con chi? Cammino. Cammino. Incontro persone sconosciute. Non le vedo. Sospesa come sono fra terra e aria, stordita nei pensieri, annebbiata nella realtà, girovaga nell'allone della solitudine, nella quale paradossalmente mi sento serena, nello sfogo di un soliloquio, compagno nel mio cammino. Quante vicissitudini si susseguono nella vita, vita vissuta, crescente nel corso di grandi eventi. Lo sono di più ora nel ricordo delle sopportate sofferenze. La guerra, i 18 anni, la forza della giovinezza, incoscienza per quanto accadeva. Nella profonda notte, per uno o più bombardamenti aerei, alzarsi assonnati, fuggire verso il vicino rifugio antiaereo nel quale non si era mai sicuri. È strano come solamente ora, nel ricordo lontano di quelle tragedie, senta battere forte il mio cuore di sgomento. A 18 anni si pensa soltanto a vivere, si apre la porta all'amore, nulla spaventa. Vivere nel grande rischio, una novità, non tragedia, come purtroppo è stata. Un particolare mi piace renderlo noto, poiché anche in quell'epoca tragica i giovani si volevano divertire. E come? Ballare in casa con il grammofono era il massimo. Accadde che, finite le danze pomeridiane, salutandoci, si rientrava a casa propria, poiché la festa si svolgeva in casa di coetanei. Sull'uscio, mentre stavamo per salutarci, suona la sirena per l'incursione aerea. Pieni di panico, volevamo scappare, scoprendo poi che la sirena era un cessato allarme. Avevano bombardato alla periferia di Bolzano e noi, incoscienti ballerini, non avevamo inteso nulla. È passato il tutto, però non lo dimenticherò mai. Con l'oscuramento esistevano gli amori, i corteggiamenti, i pensieri erano rivolti tutti a loro e se ne facevano innocentemente una collezione. Era lo scopo più grande della nostra esistenza giovane, con meravigliosi brividi emotivi. L'oscuramento aiutava ad incontrarsi, amarsi innocentemente. Durante la guerra c'era l'oscuramento, per evitare che gli aerei bellici individuassero gli obiettivi. I boati li sento ancora nel sangue. Tutto passa. Si cerca di dimenticare. Si dimentica. Se così non fosse, passerebbe la voglia di vivere. Invece, bisogna viverla la vita. È il più bel dono del creato. La vita va gustata nei suoi lati buoni. Cercare di dimenticarla quando dolorosamente colpisce. Cosa è l'esistenza? Camminare, correre, verso dove? Un sogno da realizzare, difficile da raggiungere, da non abbandonare. Camminare, correre, fermare il desiderio di quel sogno agognato. Nell'esistenza movimentata non ti accorgi di camminare, correre, arrivare. La guerra era finita. Ne soffrivamo della scia che aveva lasciato. Bolzano in quel periodo non era così popolosa e dispersiva. Ci si conosceva tutti, ci si salutava. Eravamo usciti illesi da una brutta guerra per insieme ricominciare una vita più tranquilla. Le tessere con i punti per acquistare i cibi erano state soppresse. Il mercato nero proseguiva, così si poteva comprare qualcosa in più. Tempi passati, con nostalgici ricordi. La gioventù che ci accompagnava con grande baldanza, nessun timore, anche se vissuti pericolosamente sotto diversi aspetti. Scrutandomi nell'intimo, vedo luci ed ombre, come davanti ad un suggestivo dipinto, e soffermandomi colgo ciò che mi può trasmettere emozione, angoscia o indifferenza. La vita prosegue camminando attraverso verdi viali invitanti, oppure su scoscese strade pericolanti. È un'altalena che porta su e giù. L'equilibrio lo dobbiamo creare noi. Non è così facile. L'altalena dell'esistenza con una spinta sale su per ricadere giù, cercando di risalire. Nell'andirivieni tutto si sussegue, non recepisci più il sali scendi. Negli slanci felici un baleno ed il ritorno un precipizio, non sostare. Con una spinta l'altalena sale su. Il temporale. Masse nuvolose, corrucciate, si incrociano. Litigando, sprigionano tutto il loro furore per appropriarsi di un angolo di cielo limpido, azzurro, rilassante. Nel loro litigio arriva a noi terreni lo sfogo tonificante, sovente rovinoso, il temporale. Più o meno, ogni essere umano deve sopportare qualche burrascoso temporale. Lottare contro di esso ci vuole forza di volontà. Il fortissimamente voglio spesso ripaga. aiutandoci in qualche modo a lenire le burrasche. Amo la vita nell'altalena delle sue gioie o sofferenze, ed in questo dondolio mi lascio trasportare per poter assorbire le boccate di ossigeno, per farmi sentire viva. Vivo per uscire sulle strade, osservare il movimento delle persone più o meno indaffarate, immerse nel loro segreto ego, occultato da un saluto non sempre radioso. Una pagina della mia enciclopedia personale mi ricorda un periodo della vita più che felice, direi quasi fiabesco. Il Natale. Papà arrivava a casa con un abete altissimo. Poiché nell'appartamento c'era una sala grande, l'albero ci stava benissimo alto. Papà comandava, è sempre stato un amorevole despota. Guai non aiutarlo nell'allestimento dell'albero. Il lavoro era piuttosto faticoso, ma poi si vedeva il risultato. Con quelle palline argentate e le candeline bianche, fioccato di piccoli batuffoli di cotone, acceso, una fiabesca visione. Non solo l'albero, simbolo piuttosto pagano, ma il presepietto, un vero gioiello. Completato il tutto, si posavano i regali. Naturalmente non vedevamo l'ora di aprire i pacchetti. Tutte cose modeste, utili, ma ben confezionate. Si procedeva all'apparecchiatura del tavolo da pranzo. Si cercava di arrivare alla mezzanotte per lo scambio degli auguri. Il cibo era semplice, preparato dalla mamma con grande cura ed amore. La mamma usava invitare per quella santa notte sempre qualcuno che si sentiva solo e potesse sentirsi umanamente circondato da un particolare calore. Tutto si svolgeva in un'atmosfera festosa. Che nostalgico lontano ricordo. Umanità. Umanità tanto diversa, nell'esistenza a stretto contatto, difficile nel carattere, nei sentimenti più intimi, difficile da interpretare, astratta nella comunità che circonda. Umanità volubile, nella inevitabile terrena convivenza. Promessa mancata. È come una stanza vuota, buia, senza interruttore. Una chiusa saracinesca scompare nel vuoto. Promessa mancata. Invade un senso di amaro. Purtroppo succede. Promesse mancate, dibattiti. Sovente in certi individui subentra un triste pensiero. L'invidia distruttiva annulla la promessa. Accade. Accade. Nel contesto passa una nube, offuscando il tuo sole, gioia di vivere. Diventa nero come la notte e torna profonda la sgradita solitudine. Non la puoi regalare, né imprestare. Non si vende, va dove vuole, randagia attraverso il cosmo. Nube buia. Subdolamente ti afferra. Inconsciamente in essa ti stai cullando finché non ti aggredisce l'ansia invadente. Nella quotidianità. Un'ansia strana, come un leggero pizzicore nelle vene, ti scuote. Aritmia ansiosa che non si placa, pregiudica l'esistenza di chi, nell'ego, cerca la risposta rilassante con la spirituale forza. L'ego, un forziere difficile da aprire. La chiave è disponibilità verso chi non desidera frugarci. Troppo prezioso, da conservare con la forza. Riservata, come blindata serratura. Ora i giovani hanno tutto ciò che desiderano. Per noi tutto era limitato, ma nessuno conosceva il meglio. Eravamo sereni nel nostro modesto avere. Il troppo tutto, come esiste ora, mi fa fare una riflessione, una domanda. È proprio vero che hanno proprio il tutto? Sono più felici dei giovani del mio tempo? Difficile da appurare, osservando certe videoscene. Anche il troppo tutto materiale, con pochissima atmosfera intimamente umana, il calore insostituibile di una famiglia con tanti obblighi e pochi diritti. Ci avevano insegnato il bon ton severamente, ma a vantaggio del processo vita. Sono soltanto mie riflessioni nel confronto del quotidiano ritmo. C'è stato e continua il progresso, ma va proprio meglio? Non trovo una risposta precisa. Lasciamo che tutto scorra. Cambiare? Ma cosa? Dove? Perché? L'evento. Gli eventi importanti si susseguono velocemente. Nell'annuncio li senti molto lontani. Vorresti superarli nell'immediato. È l'ansia. È vibrante vita. Finché non c'è il traguardo, tutto torna serenamente calmo, ma spegne la fibrillazione che ti fa sentire vivo. Nelle mie modeste capacità ho sempre desiderato migliorare. Amo l'arte, la letteratura, la cultura e la musica. Purtroppo sono cresciuta in tempi critici, difficili. Per i genitori era un sacrificio mantenere gli studi. Bisognava accontentarsi. La cultura, l'arte, è per me la vita. Non si impara mai troppo. Papà diceva, va benissimo studiare per apprendere mondi e culture diverse, ma avere la possibilità di viverle da vicino sarebbe il massimo. Non posso dire che non ho potuto farlo. I viaggi che ho avuto la fortuna di fare mi hanno dato tanto. Dopo aver conosciuto la bella nostra terra, il primo viaggio oltreoceano è stata un'esperienza tutta particolare. Il Siam, ovvero la Thailandia, è stata un'esperienza da non dimenticare. Un mondo così diverso in tutto. Così è nato un desiderio di viaggiare, perché ancora tante erano le bellezze da ammirare. La Birmania, con i suoi stupa e l'atmosfera misteriosa. Le isole filippine, una natura stupenda. In Brasile mi ha colpito la città di Bahia, con i suoi abitanti nel tradizionale abbigliamento di passati schiavi. Altro viaggio appassionante, l'India misteriosa, l'Africa nera, l'Africa del Sud. Posso affermare di aver visitato l'Europa fino a Capo Nord, ammirando di volta in volta le culture diverse, ma affascinanti, nel loro modo, singolarmente. Non tralascio gli Stati Uniti, dove in ogni luogo sono stata colpita da qual non so che di vita diversa da noi europei. Devo però ricordare, con tanta nostalgia ed amore, la mia compagna più cara e preziosa. Sebbene un tempo non apprezzava il mio vagabondare nel mondo per arricchire la mia cultura, con il tempo ne è rimasta affascinata, tanto da portarmi nuovi Deppian per nuovi viaggi. Ed io ne fui felice nel capire che la mia cara ed amata sorella si era così avvicinata alla mia voglia di viaggiare. Viaggiare a conoscere mondi e culture nuove. I nostri postumi commenti qualche volta erano contrastanti, ma finivano sempre in grandi risate di gioia per essere riuscite a capirci e a vivere in perfetta simbiosi. Amo raccontare, ricordare, poiché la mia adorata sorella non c'è più per programmare nuovi viaggi e belle rilassanti risate. Insieme abbiamo viaggiato un po' il mondo ed è in questo ricordo che amo proseguire nei miei sogni. I sogni, anch'essi compagni della nostra esistenza, nel mondo astratto, velato sovente di sottili raggiungibili gioie, che danno una iniezione di vita diversa, quasi serena. Serenità. Il caos lo sfuggi, sovente lo cerchi. Incrocio di voci, di macchine sferzanti, alienano il vuoto che si impossessa, come morsa a ferra, e nella stretta angosciante il desiderio di libertà. nel caos movimentato, incessante la vita, ritrovi serenità. Senza parole. Un saluto senza parole. Guardava senza parole. Osservava senza parole. Si dialogava senza parole. Ci si salutava senza parole. Silente, silente, piano piano, se ne andava, seguendo con lo sguardo spento il mio passo mentre la salutavo. Dove sei ora, senza parole? A questo punto faccio anche fatica a parlare perché sono commossa. Quando Alba mi ha chiesto tempo fa se gli avrei presentato il suo libro, ho accettato veramente con piacere. Dopo, quando ho letto la prefazione del professor De Marchi e la postfazione del professor Galazzo, mi sono spaventato e dico: oddio, povera me, che cosa mi resta da dire dopo queste due dotte presentazioni? E poi ho pensato, beh, ma in fin dei conti quali sono le cose che a me piacciono? La mia vita è dedicata attualmente alle persone. Mi interessa entrare in contatto con le persone, comunicare con le persone, ascoltare le persone. Ho ascoltato Alba, l'ho ascoltata attraverso quello che ha scritto. E mi è piaciuto tanto. Man mano leggevo, venivano in mente delle idee, ne ho preso nota e ve le dico così come sono. Mi sono venute. La prima cosa che mi è venuta in mente è: perché leggo volentieri questo libro? Io leggo volentieri quei libri che mi suscitano delle emozioni, e me ne ha suscitate tante. Quei libri che mi commuovono, me ne ero commossa anche adesso. Quei libri che mi fanno rivivere ricordi, e ne ho rivissuti di ricordi. Anch'io, che non ho, che ho i capelli bianchi, che sono, come si dice adesso, diversamente giovane, mi raccomando, non usate mai il termine. Anziani si dice diversamente giovane. Io, che sono diversamente giovane, mi sono immersa in questi ricordi, perché li ho vivissimi ancora. E quando leggo dei libri così, ci sono anch'io in quella storia, ci sono in mezzo, la vivo insieme ai personaggi, questa volta il personaggio. E alla fine mi dispiace che il libro sia finito, perché non ho più questi amici, li ho persi, vorrei che non finisse mai. E questo mi è successo leggendo Tornado. L'ho letto con grande piacere. E dietro io vedevo e sentivo Alba, sempre, proprio l'ho sentita di pelle. E la prima cosa che mi è venuta in mente è una poesia, una frase di Madre Teresa di Calcutta, che per chi ha il computer basta digitare Madre Teresa di Calcutta, non fermarti mai, e mi è venuto in mente, questa è proprio Alba. Dice Madre Teresa parecchie cose, ma alcune importanti: non fermarti mai, perché la tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Sentiti sempre vivo o viva. Non vivere di potenzialite. Fa che ti portino rispetto. È lunghina, ce l'ho anche qua, se poi la volete vedere. Ma è bellissima, io me la sono attaccata sulla mattina a colazione e me la leggo. Per avere un po' di sprint per la giornata. E Alba non si è fermata. Non si è fermata nemmeno quando un grande dolore l'ha colpita un anno fa, ma non si è fermata, nemmeno allora. E ricordo di averla incontrata proprio poco tempo e che mi aveva detto: sa, mi sono venuti in mente dei ricordi, vorrei scriverli. Io ho detto: che bella idea! E hai cominciato a scriverli. Certo, la solitudine è pesante e sembra che a volte non ci restino che i ricordi. Però Alba li ha usati i ricordi, li ha usati per continuare a vivere. Li ha usati come base solida, non funziona più questa parte. Ho schiacciato qualche cosa? Sì. È acceso. Acceso? Ah, si sente. Sentite lo stesso? Sì. Ah, allora lo metto giù. Penso che sentano. Li ha usati come una base solida per rivivere. E i ricordi sono, come abbiamo sentito, era bellissimo, la dolcezza della gioventù, i sogni, le speranze, i corteggiamenti, l'amore, i familiari, il papà. Tutti mescolati questi ricordi, così come la memoria li ha presentati, non in ordine cronologico, ma mi è venuto in mente come quando dipinge e mescola i colori e i disegni, che si rinnovano sempre come un caleidoscopio, rosa, azzurro, rosso, blu, viola, sono anche i colori delle sue pitture. E anche nelle pitture Alba riversa pezzetti della sua vita. La memoria segue altre strade, le date non sono importanti. Nulla di quello che Alba ha vissuto così intensamente è perso, nulla. Perché tutto continua a vivere dentro di lei, tutto continua a dar luce al suo presente. La vita è come un mosaico, siano le tessere colori dei quadri o parole delle poesie o dei racconti, scopriamo che sono tutti importanti, che se ne manca uno, un piccolo pezzettino, per insignificante che ci sembri, ma il mosaico è incompleto. Alba ha saputo accogliere tutti i ricordi, non cacciarli, accoglierli. E così ha scoperto di avere dei ricordi lieti, perfino di fatti vissuti durante la guerra, in quei periodi bui, in cui di tristezza ce n'era, in cui abbiamo anche sofferto qualche volta la fame, il freddo, un sacco di disagi. Però Alba non ha voluto cancellare nulla di quanto ha vissuto. La vita, dice, è come un'altalena che va giù, ma poi risale sempre. La gioia di vivere, ho scoperto, è quella che ha contrassegnato la sua vita e perciò i suoi ricordi. Anche se si è soffermata alcune volte col pensiero ai momenti più tragici, ha saputo cogliere, dote rarissima, ciò che comunque l'ha allietata. Non si è fermata sulle tristezze. Sì, c'era, però c'era anche questo. Mi fa venire in mente, che ne so, un fiore, un fiorellino che comunque riesce a sbocciare anche nel deserto della tristezza, nella tristezza. E questo fiorellino lo chiama corteggiamento, lo chiama amore platonico, quella volta là, per carità, soltanto tenersi la manina era un problema. Le gite in montagna, che bello, quando si partiva la mattina presto con l'autobus, però prima bisognava andare a messa e poi si passava dall'Emaier su per le scale a comprare i panini, che era il primo panificio che teneva aperto, perché mica altro avevamo che un panino. Il ballo, non mi ricordo, era mia bottai, non mi ricordo più come si chiamava, mi richiamava quel posto dove si andava a ballare. Non me lo ricordo. La municipale. La compagnia degli amici. E poi i capelli lunghi biondi, importanti, più importanti della corte del bello ufficialetto. Sì. Nella sua enciclopedia delle emozioni che formano i tanti brani della sua vita, ha scoperto Alba di non essere mai stata sola nel suo cammino, perché è stata sempre bene con se stessa. Anche questa è una dote rarissima. Ha sempre saputo colloquiare con piacere con se stessa. E così, vorrei concludere molto semplicemente, ma con un grande augurio a Alba. Continui a scrivere, continui a dipingere, continui a fare tutte quelle cose che, come lei dice, le fanno sentire che esiste e non è poco, anzi. Grazie. devo ringraziare veramente questo pubblico meraviglioso, quante persone, e questo veramente mi dà ancora forza per continuare a scrivere, per dipingere e per vivere, perché rimanendo soli è veramente un tunnel buio e da quello si deve uscire, però devi trovare la forza in te stesso e non è facile, è proprio qualche volta come uno fa quelle scalate in montagna e vanno contro l'estremo, è proprio così, qualche volta è proprio così, però si deve uscire, ecco. Ringrazio molto per questa attenzione e io, se posso, continuo a scrivere. Mi sono fermata, ma avrei avuto ancora tanto da scrivere, ma forse mi rimane ancora il tempo per farlo. Non ne avrò molto, ma comunque. La professoressa Leverato, chiaramente il professor Eugen Galasso, Patrizio Sindaco, grazie dell'Aquila, tutti quanti voi. Vi invito a frequentare questa biblioteca, ad iscrivervi se avete piacere, ad avere anche le nostre informazioni, i nostri servizi e soprattutto a diffondere la voce che stiamo raccogliendo i diari, per cui se conoscete qualcuno o voi per primi avete qualche testimonianza da lasciare questa biblioteca, che la conserverà e la farà conoscere anche attraverso il sito web, saremo molto felici di poterlo fare. Vi ringrazio e a presto. Però io vorrei tanto ringraziare il professor Galasso, che mi ha fatto una bellissima presentazione, e la dottoressa professoressa Leverato, queste due splendide persone. Grazie.